Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi saluto nuovamente il presidente Carlo Garofolini che è con noi, benvenuto Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi raccontiamo una vicenda come capita purtroppo certe volte tu vai in un posto, ordini un bene, in questo caso parleremo di un divano e forse anche di qualcos'altro, ma ordini un bene che ti piace, ti va bene, dici voglio quello lì, fai tutte le carte, paghi quello che devi pagare o fai un finanziamento, quello che serve insomma per andare avanti nel rapporto di acquisto di questo bene. E poi quando invece ti arriva a casa iniziano i problemi, perché quello che ti è arrivato a casa non corrisponde a quello che volevi tu, che hai ordinato. Purtroppo Francesco, questo è il problema di quando si ordina, si acquista un bene in un negozio e lo si attende a casa, quando alla fine poi la vicenda così facendo anche si complica. Complicarla ulteriormente nel caso di questa, che riguarda proprio l'acquisto di un divano che poi alla fine alla consegna il socio scopre che non ha le caratteristiche che invece aveva ordinato, c'è stata la stipula di un finanziamento che quindi rischia di prolungare non solo lo sviluppo di questa pratica ma anche questo malessere, perché chiaramente il valore è di 3.000 euro, il finanziamento riguarda 24 rate, per cui è sicuramente una vicenda che bisogna trovare modo di risolvere assolutamente, perché chiaramente non si può stare anche per tutta la durata del finanziamento con questo malessere. Carlo, io so che quando si va in un negozio e si compra qualcosa e se la paghi subito, quella cosa è quella che hai comprato e va bene così, cioè quella è, no? Come dire, vista piaciuta, no? Però in questo caso, quando c'è invece il bene che viene consegnato dopo qualche giorno, tipo un divano, può essere un letto o un armadio, immaginiamo che quindi non te lo porti via tu direttamente, possono capitare queste cose, che ti arriva qualcosa di sbagliato. Sì, noi abbiamo deciso di pubblicare questa vicenda perché casi del genere capitano molto frequentemente. In questo caso il mobilificio è di Padova, i signori sono di Padova e certamente tutta la vicenda non si risolverà, come abbiamo detto, in maniera così semplice, perché bisogna denunciare che in questo caso manca proprio la collaborazione del negoziante, in quanto le persone prontamente hanno subito fatto presente che il divano acquistato, che ripetiamo un valore di 3.000 euro, non era quello ordinato in negozio per colore e tessuto, e oltretutto le persone si sono cercate anche di andare incontro al negoziante dicendogli guarda, datemi addirittura quello che è in vetrina in modo che siamo sicuri di quello che ho ordinato e magari non allunghiamo i tempi per non rischiare che eventuali future consegne possano complicare ulteriormente già questa vicenda, ma a tutte quelle che sono state le richieste e i buoni propositi delle persone, in questo caso certamente bisogna dire che il negoziante non ha fatto nulla per cercare di esaudire e sbrogliare questa situazione. Ecco, ma l'errore dove c'è stato? Nella compilazione dell'ordine o piuttosto che? Allora, innanzitutto i soci che si sono rivolti all'Adico hanno, devo dirlo, pienamente ragione, in quanto il bene che avevano ordinato era quello che era esposto. E il divano che gli è arrivato rispetto a quello che era esposto si vede perfettamente che non è la stessa cosa. Poi chiaramente in questo caso sono anche stati fortunati, diciamo, che potevano dimostrare cosa avevano ordinato rispetto a quello che gli è stato consegnato, ma bisogna anche capire che in una situazione diversa, dove magari si ordina in catalogo e si ha la possibilità di scegliere i colori, visionare i tessuti eccetera, poi comunque è molto più difficile risalire, in quanto ci sono i codici rispetto al bene a descriverne la composizione, certamente queste vicende non sono mai molto semplici da venire a capo. E nei casi invece dei signori abbiamo voluto proprio rimarcare come la prontezza, il materiale fotografico e la buona volontà anche di credere fino in fondo che quello che hanno ordinato comunque non erano costretti a doverselo tenere, certamente li porterà a una risoluzione, ma non in tempi brevi, perché la collaborazione del negoziante sembra fino a questo momento che non ci sia, pertanto a questo punto saranno i nostri uffici a dover usare le carte bollate e i toni duri per costringerlo a venire incontro alle richieste delle persone che in questo caso sono rivolte a noi. Ecco, quindi è importante avere un appoggio sicuro come quello dell'Associazione Difesa Consumatori. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, che è il vostro sito. Come si risolvono altre volte questi casi? Quasi sempre bene? Allora, innanzitutto, Francesco, io ricordo sempre, come hai detto tu, quando si acquista dentro un negozio non c'è il diritto di ripensamento, ma purtroppo quando si è dentro gli esercizi commerciali l'unico diritto che abbiamo è la garanzia, per cui visto piaciuto come motto purtroppo è in sintesi quello che tutti conosciamo, mentre tante volte la gente si confonde e pensa di tornare a restituirlo per aver dato i soldi indietro. Nei casi che abbiamo trattato noi di solito si risolve bene, ma ci c'è la buona volontà del commerciante di acquistare la fiducia del cliente. Dove questo non c'è, o si raggiunge una transazione, magari si restituisce il divano, in questo caso lui ti fa un buon acquisto dello stesso valore per comprare degli articoli che vende, oppure se nel peggiore delle ipotesi si è costretto ad andare davanti al giudice di pace, allora in questo caso le prove, le documentazioni, le testimonianze, il materiale fotografico, quello che è stato il contratto rispetto a quello che sono il bene che è stato consegnato, diventa tutto di vitale importanza per sbrogliare questa matassa. Ecco, il consiglio che possiamo dare quindi quando andate a comprare un divano, un letto, un armadio o cose di questo genere, qualcosa che poi vi trasporteranno a casa, ve lo porteranno a casa, guardate bene che sia scritto tutto molto chiaro nell'ordine, e perché no, anche si potrebbe, come dire, scattare una foto insieme all'ordine anche della cosa che avete visto in negozio. Quella potrebbe essere ancora una cosa più utile per garantire l'acquirente. Certamente, la fotografia è sempre, non sbagli mai scattandola, perché è sempre una prova tangibile sia del colore ma anche dei materiali, perché comunque si riesce abbastanza a risalire con una buona qualità di immagine quello che è un po' l'articolo ordinato, però è anche da dire, Francesco, che non oltre la fotografia è molto importante anche cercare di sottoscrivere il contratto in maniera più dettagliata possibile quando si ordina, e se si riesce cercare di dare il minimo possibile di acconto e inviare quello che è il pagamento e il saldo, anche se ci dovesse essere una finanziaria, cosa che non è semplice, alla consegna. Ecco, questa è una cosa molto utile da sapere, per cui vale la pena, insomma, perdere quei 15 minuti in più al momento dell'acquisto e metterci bene d'accordo, pagare un acconto e poi dopo, quando è arrivato a casa, vediamo di chiudere l'acquisto. Va bene, grazie per questi consigli preziosi, grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, noi ci sentiamo tra un paio di giorni. Grazie a te, Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.